La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 8 maggio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. In questa puntata di Caccia al Fotone cercheremo di parlare non tanto di scienza, ma delle modalità in cui si fa scienza e delle modalità in cui si pubblica la scienza. Lo faremo cercando di analizzare un paper uscito qualche giorno fa su PLOS ONE, intitolato Do Pressure to Publish Increase Scientist Bias? Di questa ricerca cercheremo di parlarne col primo autore, che è appunto il dottor Daniele Fanelli, ricercatore presso l'Istituto di Scienze Tecnologiche e Innovazione dell'Università di Edimburgo. Buongiorno, dottor Fanelli. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Dottor Fanelli, all'inizio della trasmissione abbiamo 100 parole per introdurla, quindi 100 parole per dare il là alla puntata odierna di Caccia al Fotone. In 100 parole vorrebbe riassumere un pochino il contenuto di questo paper, poi certamente lo andremo a analizzare nel corso della puntata, ma secondo me questo paper ha qualcosa di rivoluzionario nel suo contenuto. Questa, per dirla molto brevemente, è la prima prova diretta, cioè ottenuta analizzando direttamente la letteratura, di una cosa che si sospettava da parecchio tempo, e cioè che all'aumentare della produttività accademica non segue necessariamente un aumento della qualità della ricerca stessa, per non dire che sembra peggiorare. Quindi lei sta dicendo un pochino quello che ha detto all'inizio del paper, publish or perish, pubblicare o perire scientificamente. Sì, che è una vecchia espressione che descrive in modo... sempre più accurato, purtroppo, la condizione dei ricercatori un po' in tutti i paesi tecnologicamente avanzati, in cui per buone ragioni, diciamo in qualche misura per migliorare l'efficienza in qualche modo della ricerca, si incoraggia la competizione. È una competizione che si decide comunque in gran parte in base al numero di pubblicazioni e al successo che hanno. Che detto così suona bene, e infatti fino a un certo punto è un approccio ragionevole, ma portato troppo all'estremo crea quello che potenzialmente è un conflitto di interessi, perché chiaramente fare scienza dovrebbe essere occuparsi solo di dati e teorie ed essere completamente obiettivi e distaccati addirittura dai risultati che si ottengono. Questo è l'ideale, no, della ricerca. Se però da quei risultati che si ottengono dipende il successo o meno di una pubblicazione, e da questo poi dipende la propria carriera, cioè l'ottenere un nuovo contratto, l'ottenere un fondo di ricerca, appunto, se c'è una relazione troppo stretta fra le due, a quel punto appunto c'è un conflitto, perché a essere troppi obiettivi si rischia di suicidare la propria carriera. Dottor Fanelli, a questo punto abbiamo messo davvero tanta carne al fuoco, perché ci sarà veramente tanto di cui parlare di questo argomento, di questo paper e di tanti altri argomenti adesso collegati. Quindi a questo punto ci andiamo ad ascoltare un pochino di musica. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di centrare la nostra attenzione sul come esce una notizia dai laboratori di ricerca. Nella seconda parte della trasmissione cercheremo di analizzare questo paper e cercheremo di capire come è stato realizzato, quanto tempo ci è voluto e soprattutto il suo contenuto. Quindi a questo punto musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a Caccia Fotone. Come along. Can you take me home? Can you take me home? E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui a Cacciafotone, la trasmissione di scienza che qui sulle frequenze di Radio Città Fucico prova a parlarvi di tematiche scientifiche, di tematiche correlate alla scienza ogni sabato mattina ormai da qualche anno a questa parte. In questa trasmissione però cercheremo di parlare non tanto di scienza, ma cercheremo di parlare del come si produce la scienza. E ne parleremo cercando di analizzare un articolo, un paper uscito qualche giorno fa su Plus One a firma di Daniele Fanelli, ricercatore presso l'Istituto di Scienze Tecnologiche e Innovazione dell'Università di Edimburgo. Dottor Fanelli, all'inizio cerchiamo di capire una cosa. Io sono ricercatore, provo a pubblicare una ricerca. Qual è effettivamente il percorso che fa la mia ricerca, la mia scoperta per arrivare dal mio tavolo al tavolo di un giornalista, quindi al tavolo di un giornalista che legge una rivista tipo Science, Nature o appunto Plus One, che è la rivista sulla quale lei ha pubblicato questa ricerca? Beh, allora il processo appunto parte che io scrivo un articolo in cui presento con un'introduzione metodi, risultati e discussione quella che era la logica del lavoro, no? Quindi la domanda che mi ponevo, i metodi che ho usato per rispondere, i risultati e quello che secondo me i risultati vogliono dire. Mando questo articolo a una rivista, cioè o quello che forse diciamo in inglese si fa questa distinzione, sarebbero i journals, va bene, comunque sì, una rivista scientifica, non una rivista normale, e lì ci sono degli editor che normalmente nella maggior parte dei casi non meno in Plus One di norma nelle riviste sono i primi un po' a scremare la letteratura, a decidere se quel tipo di articolo può interessare agli scienziati che normalmente leggono quel tipo di rivista, e già qui si crea, no? Cioè, si crea un'area che secondo molti è problematica. Da lì poi se si decide di procedere, l'editor individua solitamente almeno due esperti nel campo di ricerche a cui l'articolo si riferisce, e mandano loro l'articolo, e questo in forma anonima, gratuitamente, analizzano, insomma, leggono l'articolo, no, approfonditamente, lo analizzano, individuano possibili problemi o no, e quindi poi inviano dei commenti all'editore per dire questo articolo è valevole di pubblicazione o meno. Se è valevole di pubblicazione, comunque, insomma, questi commenti poi tornano al ricercatore, che se l'articolo può essere pubblicato normalmente ha delle correzioni da fare, o altrimenti viene rigettato. Ecco, questo è il processo complessivo. Senta, perché lei ha deciso di pubblicare il suo lavoro su PLOS invece che pubblicarlo sulle riviste tra virgolette più blasonate come Science o Nature? Ecco, appunto, perché come forse avremo l'occasione di dire più tardi, appunto, diciamo, questo è un sistema che ha dei benefici, diciamo, cioè, l'idea dietro tutto questo processo è di garantire appunto un certo livello, un certo rigore nella letteratura scientifica, ma crea tutta una serie di problemi che parte toccano proprio le cose che studio io, è che iniziative come quella di PLOS One, in particolare, PLOS in generale, cercano di risolvere. PLOS One, tanto per cominciare, è una rivista che diciamo, ha lo scopo di unire un rigore nella peer review, in questo processo di revisione tecnica del lavoro che si diceva, però unito alla missione di non scremare appunto i lavori a priori in base a quello che è il messaggio dato, perché è qualcosa che appunto a detta di molti, e ci sono appunto studi che questo comunque suggeriscono, già in questa fase si rischia di distorcere il messaggio scientifico, perché ovviamente l'editor di una rivista non è necessariamente in grado di capire l'importanza di un lavoro, e comunque sia l'importanza di un lavoro difficilmente la si comprende sul momento, no? Per cui appunto quello che PLOS One apertamente intende fare è essere sicuro che i lavori pubblicati sono tecnicamente validi e logicamente quanto più possibile approfonditi e accurati, però non seleziona dai lavori in base ai risultati che presenta in pratica. Può fare questo principalmente perché essendo solamente online non ha problemi di spazio, che invece è una delle cose che limita la maggior parte delle riviste scientifiche. E questo crea un paradosso, perché, forse per spiegarla meglio, per capirsi, più si va in quelle che sono considerate riviste prestigiose, come appunto Nature e Science che menzionava prima, più si arriva in quello che però paradossalmente è un processo di selezione a priori meno scientifico. Cioè quello che Nature e Science per esempio apertamente dicono è che quando si manda loro un lavoro, loro tanto per cominciare decidono se quel tipo di lavoro avrà un impatto, no? Di grande portata per tanti lettori. Questo a prescindere dall'impatto scientifico reale del lavoro stesso, mi spiego? Diciamo, detta volgarmente, rischia di essere un po' lo scegliere gli articoli che possono fare più notizia. E questo, capite, è la prima selezione, dopodiché si mandano in peer review. Quindi paradossalmente l'importanza di riviste come Nature e Science sta nell'impatto generale che un lavoro può avere, più che non necessariamente nella sua profondità o nella sua, nel suo impatto nel lungo termine. Sento, dottor Fanelli, la interrompo un attimo perché con lei vorrei analizzare un discorso che lei poi ha criticato nel paper, cioè il discorso per cui un centro di ricerca, un ricercatore, ha il suo peso scientifico se ha molte pubblicazioni. Perché questo discorso, secondo lei, di pubblicare molti lavori è un discorso che fino ad ora è stato un discorso vincente dal punto di vista scientifico nella competizione appunto scientifica? Ma io che sia vincente non sono così convinto. Diciamo che, allora, la ricerca non ha senso se non viene pubblicata. Per cui ecco che di fondo, diciamo, il dire che gli scienziati, i ricercatori devono pubblicare è sacrosanto. Il fatto che alla fine diventi un po' una corsa all'avere una lunga lista di papers da mostrare sul proprio curriculum è un po' una distorsione di questa logica, che viene un po' dal fatto che alla fine più si va avanti, più la ricerca diventa complessa, meno per chiunque è possibile realmente capire la qualità del lavoro che viene fatto, no? Diventa sempre più difficile, per cui uno inevitabilmente si basa sempre più su criteri che sono un po' superficiali. Allora ecco che in tanti contesti, quando si va a decidere non so, su chi deve diventare ricercatore, insomma, in un certo concorso, o appunto quando si va a decidere chi deve avere i fondi, potenzialmente non si è necessariamente in grado di capire quanto realmente quello che questa persona sta facendo è importante. Lo si valuta in base a parametri che sono un po' esterni, come appunto quanto comunque realmente è produttiva, che mostra se non altro un'attività insomma reale, e altri parametri come appunto il fattore di impatto della rivista in cui questi articoli sono pubblicati, che però, per come abbiamo detto poco fa, non è necessariamente un garante di qualità. Un criterio un po' più accurato è il numero di citazioni che questi articoli hanno ricevuto, che di nuovo però insomma crea i suoi problemi. E c'è un campo di ricerca molto attivo, infatti, che cerca di sviluppare degli indici. L'intenzione è quella di creare un indice obiettivo che con un solo numero riesca un po' a confrontare la qualità dei ricercatori, ed è appunto un campo di ampio dibattito sicuramente. Senta, dottor Fanelli, prima di andarci ad ascoltare il prossimo pezzo musicale, che poi farà un po' di intervallo fra la prima e la seconda parte della trasmissione, volevo farle commentare una frase che ho trovato sul libro La scienza negata di Enrico Bellone, e questa frase è attribuita a Jeremy Rifkin. Ora, io non amo particolarmente Jeremy Rifkin, però questa frase mi sembra particolarmente centrata per l'argomento di cui stiamo discutendo. E dice esattamente: quante volte abbiamo sentito il nostro capo ripeterci che il mondo va affrontato così com'è e non come vorremmo che fosse? In questo caso il capo non se ne rende conto, ma è come se citasse Bacone quando questi sosteneva che dovremmo costruire nella nostra mente un vero modello del mondo come realmente è e non come la ragione umana vorrebbe che fosse. Lei come me la commenta questa frase, che mi sembra particolarmente centrata per l'argomento di cui stiamo parlando? Sì, no, sicuramente. Diciamo che questo tocca quello che secondo me di fondo è un... Allora, abbiamo detto che c'è un conflitto di interessi no, in tutti i ricercatori, in un certo senso. Ora, in qualche misura ci può essere un problema a livello di sistema, ed è quello di cui parliamo quando parliamo, per esempio, delle mie ricerche, che può essere corretto. Secondo me, al di là di questo, comunque c'è appunto di fondo un limite che sta proprio nella umanità stessa dello scienziato, e questa è una cosa per cui, diciamo, in qualche misura non possiamo, non potremo mai sperare che la ricerca scientifica sia realmente perfetta, obiettiva e distaccata come la teoria vorrebbe che fosse, e questo per un fatto molto semplice, ed è che gli scienziati, soprattutto i grandi scienziati, sono esseri umani e sono esseri umani animati da solitamente forti ambizioni, forti passioni, solitamente forti convinzioni su quella che è la realtà delle cose. E quindi, anche se in teoria no, noi dipingiamo la scienza come un processo razionale che guarda i dati e costruisce delle teorie su questi, in realtà solitamente le cose vanno nel senso opposto. C'è qualcuno che fa di tutto per dimostrare che la sua intuizione è giusta. Questo è un motore fondamentale della ricerca stessa, che inevitabilmente fa sì che nessuno singolo scienziato, per quanto in gamba, onesto, intelligente, bravo sia, potrà mai essere realmente obiettivo. Qualsiasi scoperta che viene fatta per la prima volta e che viene fatta soltanto dalla stessa persona non andrebbe mai considerata come conclusiva. Questo appunto, di nuovo, indipendentemente dalla qualità di chi ha prodotto il lavoro, dalle garanzie di onestà, perché ci sono processi che prescindono dal controllo cosciente di chiunque. Dottor Fanelli, la faccio respirare un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio parleremo effettivamente della ricerca pubblicata qualche giorno fa su PLOS ONE, e cercheremo di capire con lei perché il principio base per cui molte pubblicazioni corrispondono a un'alta produttività scientifica e quindi a un alto rigore scientifico potrebbe non essere vero. Quindi a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a Cacciafotone. Time to say goodbye. E bentornati cari radioascoltatori qui a Cacciafotone, raggiungibile dal sito www.cacciafotone.it. In questa puntata in cui stiamo provando a parlare non tanto di scienza come già detto all'inizio della trasmissione, ma stiamo provando a parlare delle modalità con cui si fa scienza. E in particolare stiamo provando a discutere se l'alta produttività scientifica sia davvero un indice di un'alta rigorosità scientifica. Dottor Fanelli, sono stato corretto nel descrivere il suo lavoro in questo modo oppure no? Sì, sì, diciamo abbastanza semplicemente, negli ultimi 30 o 40 anni si è andato incoraggiando attraverso vari sistemi la produttività scientifica e molti ricercatori e alcuni studi a livello di interviste a scienziati o per esempio a persone accusate di frode scientifica lascerebbero suggerire che in realtà questo però in qualche misura crei un problema, perché la scienza sarebbe fatta di produrre dati obiettivi e accurati, ma appunto se ci si aspetta una costante produzione, no, di risultati, allora ecco che magari si rischia di forzare gli scienziati a far apparire i risultati per quello che non sono. Dottor Fanelli, vorrei che le precisasse questo, perché in realtà questo lavoro non analizza solamente le ricerche come normalmente si fa nel campo biomedico, ma analizza le ricerche di tutti i campi dell'area scientifica. Questa è in parte la novità, perché alcuni studi di questo tipo si fanno proprio in campo biomedico, infatti è lì che per vari motivi si è cominciato a vedere questo problema della sovrabbondanza dei risultati positivi. Ecco, magari chiariamo subito rapidamente, perché questo spesso crea confusione. Parleremo dei risultati positivi e negativi, intendendo per risultati positivi quelli che confermano l'ipotesi di partenza. Risultati negativi sono quelli che non la confermano o magari la contraddicono anche. Si chiamano negativi, ma in realtà ovviamente sono importantissimi per la scienza, perché anzi la scienza progredisce proprio quando vede che non riesce a spiegare i dati con le teorie che ha. Però è stato osservato in diversi campi e probabilmente in tutti i campi di ricerca, si è visto che si pubblicano troppi risultati positivi e troppo pochi risultati negativi. Allora, parte del mio lavoro cerca di individuare alcuni dei fattori che se non altro possono peggiorare questa situazione. Allora, quello che ho fatto nello specifico era di campionare appunto a caso articoli in tutte le discipline, concentrandomi su articoli il cui autore principale, cioè il corresponding author, quello che lascia il proprio indirizzo per eventuali commenti da parte dei lettori, lavorava negli Stati Uniti. Ora, gli Stati Uniti non perché ce l'abbia con gli americani in particolare, ma perché erano un buon esempio da utilizzare, insomma un buon modello da studiare. E quello che ho fatto è semplicemente di guardare la frequenza di risultati positivi e negativi nei diversi stati e di verificare se c'era una relazione fra questa e il livello di produttività accademica degli stati stessi, misurata non da me ma dalla National Science Foundation, che è uno dei principali enti finanziatori della ricerca americana e che ha dei dati molto accurati su questo, proprio perché in America per esempio è uno di quei paesi in cui l'enfasi su questa cultura, insomma, del produrre è abbastanza alta, e quello che si vede è un risultato abbastanza paradossale. Perché appunto viene fuori che gli stati che a parità, appunto tenendo ferme tutte le differenze tra discipline, negli stati in cui di media i ricercatori pubblicano più articoli a testa e tendenzialmente almeno con altrettanti o meno fondi di ricerca, pubblicano più risultati positivi. E questo è un suggerimento, non è una prova conclusiva, e questo è bene precisarlo, anche per quanto dicevamo prima rispetto ai dati trovati per la prima volta, ma Questo è appunto un risultato abbastanza paradossale che suggerisce che effettivamente questi timori che sono stati espressi da ormai da qualche tempo sono reali, e cioè che con l'aumentare di nuovo della produttività scientifica la qualità della ricerca stessa rischia di peggiorare. Senta, lei ha appena definito un dato positivo se conferma l'ipotesi di partenza, un dato negativo se non conferma l'ipotesi di partenza. Ora, come si fa a definire un dato positivo se non conferma l'ipotesi di partenza quando sappiamo che la scienza è in continua evoluzione? Mi viene per esempio in mente che se il dottor Gabriele Veneziano prima del 68 avesse presentato l'ipotesi della teoria delle stringhe, che era assolutamente non accettabile dal punto di vista scientifico, quell'ipotesi gli sarebbe stata bollata come ipotesi negativa. No, esatto, diciamo positivo e negativo sono termini tecnici, appunto. Poi infatti ci tenevo a precisare che in realtà i risultati negativi non sono negativi per niente, ecco, sono, in teoria sono altrettanto validi, se la ricerca è stata fatta bene, no? È proprio quel dato lì che vogliamo, non una sua ripresentazione o una sua manipolazione. Il punto sarebbe uno studio che dichiara di verificare, no, l'ipotesi in questione, che poi adesso quello è un caso particolare e sarebbe interessante tornarci, ma diciamo in generale il risultato negativo sarebbe uno studio che intende verificare una predizione di questa teoria e non trova conferma. Ora, ci sono due cose interessanti da dire rispetto a questo. La prima è che in realtà c'è un altro studio che ho pubblicato solo pochi giorni prima, sempre su Plus One, utilizzando la stessa tecnica su un campione che era in parte questo ma in parte più ampio, in cui invece confrontavo proprio sistematicamente le discipline. E lì viene fuori che in realtà, infatti, i risultati negativi sono più frequenti nelle scienze fisiche, come l'astronomia o la fisica e la chimica, e vanno invece calando proprio gradualmente quando si va verso le scienze biologiche e poi le scienze sociali. Quindi in realtà, prendendo l'esempio della fisica, la fisica se non altro sembra essere come filosofi della scienza hanno pensato, hanno suggerito per lungo tempo, ed erano, anche se nessuno gli credeva, che in realtà appunto le scienze fisiche siano più vicine a questo ideale di scienza che abbiamo che non le scienze biologiche o le scienze sociali. Qui ci sarà proprio una gerarchia delle scienze. L'altra cosa che volevo aggiungere, se mi concede altri 30 secondi, era rispetto però alla teoria delle stringhe. È un caso interessante perché, come forse saprà, è attualmente oggetto di un grande dibattito, proprio perché c'è chi sostiene che non sia più scientifica, okay? Che stia distorcendo il progresso della fisica stessa, proprio perché in realtà secondo molti non produce predizioni che sono verificabili al momento, e quindi appunto non si presta nemmeno a questo tipo di test, non si presta ad avere risultati negativi. Insomma, possiamo riassumere dicendo che visto che un ricercatore ha molti più vantaggi a pubblicare un risultato che sia tra virgolette positivo e quindi che confermi un'ipotesi di partenza, il ricercatore tenderà a non uscire da quel percorso e quindi ripubblicare ricerche che vadano a confermare filoni già esistenti. Sì, conviene pubblicare risultati positivi, questo è, diciamo che parte da un fenomeno psicologico e culturale, no? Dicevamo che gli scienziati sono esseri umani, di fondo, diciamo, gli esseri umani tutti hanno quella che in inglese definisce confirmation bias, adesso l'equivalente italiano non so se potrei pensarlo, ma insomma, diciamo che tutti gli esseri umani, e questo è stato ben dimostrato, tendono a confermare le proprie ipotesi sul mondo, cioè noi pensiamo qualcosa del mondo e inconsciamente filtriamo le informazioni per confermare quello che pensiamo. Per cui c'è qualcosa che è molto radicato nella natura umana stessa, no? Alla base di questo problema di avere troppi risultati positivi. Questo poi viene rinforzato da un sistema per cui, per esempio, e io ho dati anche rispetto a questo che spero di pubblicare a breve, in cui i risultati positivi vengono citati più spesso dei risultati negativi. Di nuovo, non c'è nessuna ragione scientifica per cui questo dovrebbe avvenire, però è facilmente misurabile nella letteratura. E quindi, appunto, è un problema che parte da quella che è, appunto, forse una componente della natura umana stessa, si estende a un fenomeno culturale nel mondo della scienza e viene rinforzato da un sistema che è un sistema che incoraggia la competitività e che incoraggia una competizione decisa in base a misure di performance, no? Che non sono necessariamente una misura di qualità reale. Senta, siamo in conclusione di trasmissione, quindi le faccio l'ultima domanda prima di concludere questa puntata di Caccia Fotone. Una domanda un po' provocatoria, un po' scherzosa, che mi viene da quello che ha detto in trasmissione. Lei dice che bisogna pubblicare pochi risultati e pubblicarli bene, quindi pochi lavori e pubblicarli bene, che bisogna seguire magari dei filoni non esplorati da altri, che però magari dal punto di vista scientifico sono più interessanti e però non regalano dei fondi per la propria ricerca. Insomma, detta in parole povere, lei è proprio un comunista. Ma io non sto esattamente dicendo questo, sì, io non ho la presunzione di sapere dove la scienza deve andare, questo appunto non mi compete, è qualcosa che devono decidere le singole comunità di ricercatori, va bene, quindi in questo senso semmai sarei anarchico, ecco, non comunista, no? Piccole comunità di intellettuali illuminati. Quello che sicuramente posso dire è che ci sono, no? Ci sono dei fattori, diciamo, di partenza, come abbiamo detto. Allora, troppo spesso forse ci vogliamo raccontare che la scienza è un processo ideale, assolutamente affidabile e corretto, così com'è, che non è il caso. E questo appunto a prescindere dalla onestà o meno delle persone coinvolte, eccetera. Ci sono proprio fattori che sfuggono al nostro controllo e che la rendono, come qualsiasi altra attività umana, imperfetta. Parte di questi fattori sono fattori sociali, sono fattori appunto che in qualche modo, pensando sempre alla metafora del comunismo, insomma, possono essere osservati e in qualche modo controllati e corretti dall'esterno, e lì forse sì c'è spazio di intervento, ma a parte quello sono sicuramente completamente anarchico per quanto riguarda la scienza. Dottor Fanelli, intanto grazie per aver risposto scherzosamente alla mia domanda, che era appunto scherzosa, ma in effetti insomma ci aveva preso un pochino. A questo punto saluto i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie dottor Fanelli. Grazie, arrivederci.